Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che ritorna con una figura assai rilevante del panorama culturale italiano, Pino Boero, grande studioso di letteratura, in particolare una voce primaria per quanto riguarda l'epopea di Gianni Rodari e Marcello Argilli. In questa seconda parte dell'intervista approfondiamo il senso della letteratura dello stesso Argilli, grande narratore toscano, le vicinanze o non le vicinanze con Rodari, paragoniamo questi vecchi leoni con i nuovi esponenti della letteratura per ragazzi attuale. Pino Boero. Rodari ebbe anche un rapporto di grande amicizia e collaborazione con Marcello Argilli e fu Rodari ad invitarlo a collaborare al Pioniere. Ricordiamo che Argilli è stato anche un grande della letteratura per ragazzi. Che cosa mi può dire Pino Boero di questo rapporto? Beh, sicuramente in quegli anni il rapporto fra Gianni Rodari e Marcello Argilli fu un rapporto molto, molto stretto. Lì a Marcello Argilli si deve in qualche modo l'invenzione di personaggi come Chiodino, come Atomino, personaggi che hanno avuto anche loro una bella storia. A Gianni Rodari si devono anche le prefazioni alla fine degli anni 60 alla ristampa delle fiabe moderne di Argilli. Erano però, io credo, due sensibilità diverse. Marcello molto direi radicato nelle convinzioni, diciamo, della sinistra, sempre molto attento ai temi del sociale, ai temi dell'impegno, anche se con grande creatività anche lui, però molto sempre anche negli ultimi anni legata a quest'idea e legata quindi all'idea del pioniere come davvero elemento di forza di uno sviluppo pedagogico civile. Gianni Rodari da quel punto di vista non un po' meno, perché i suoi ideali sono andati avanti sempre, ma sicuramente anche più attento a un mondo della comunicazione, diciamo, anche cambiata, anche moderna. Io credo che alla fine, dagli anni 60-70 in poi, le loro strade, pur avendo ideali comuni, pur avendo basi comuni, anche a livello stilistico si siano sostanzialmente un po' divise. Divise poi, e questo potrebbe sembrare il paradosso, cioè il più conservatore, se vogliamo, dal punto di vista progressista, ed è un bisticcio di parole, ma non è così, era Argilli. E però Argilli era il grande difensore della fiaba moderna, della fiaba e difensore e scrittore della fiaba moderna, e i protagonisti delle sue storie, anche molto belle, erano, che so io, la lavatrice piuttosto che la macchina tipo da stampa, piuttosto che l'automobile, mentre Rodari, che doveva essere insomma l'anima un po' più aperta al nuovo, era, per ragioni culturali molto esplicite, il difensore della fiaba classica. Gianni Rodari, che pure ha scritto fiabe, figuriamoci, moderne, lo diceva, nelle fiabe popolari, quelle di Calvino ad esempio, davvero è, come dice Calvino, il catalogo dei destini, è il nostro fondo antropologico, eccetera. Quindi già in questo vediamo due personaggi di grande spessore, entrambi diversi poi forse negli esiti, ma proprio per questo così multiformi, così ricchi da far sì che a mio parere il quadro della letteratura per l'infanzia in Italia perlomeno degli anni 60-70 deve moltissimo ad entrambi. Veniamo all'oggi, visto che lei è sicuramente un esperto di letteratura per ragazzi e per bambini, quanto resta, quanto c'è di Rodari e anche di Argilli come proprio impostazione, insegnamento, e che cosa invece c'è di nuovo? Cioè abbiamo un po', diciamo, siamo andati oltre, sono stati fatti dei passi avanti o in quale direzione sulla letteratura per l'infanzia? Io credo che insomma sia anche giusto fare passi avanti o perlomeno partire da basi comuni per andare sempre oltre. E credo che ad esempio gli autori come il primo Roberto Piumini con Le filastrocche devono molto a Rodari e poi abbiano anche preso una maggiore attenzione, forse vorrei dire, non tanto al gioco di parole quanto alla costruzione un po' più letteraria del testo, oltre che naturalmente divertente e seria. Un altro autore che sicuramente io vedo per quello che riguarda la poesia, rodariano, non perché faccia il calco Rodari, ma perché sappia capire il valore della parola in Rodari, è Bruno Tognolini, che è sicuramente poeta, è attento alla dimensione, se vogliamo, anche lui più letteraria, però ha questa dimensione del gioco, del valore della parola. Quello che Gianni Rodari ci ha lasciato come esempio è proprio l'idea che la parola è importante, che la parola conta, la parola va giocata su molteplici terreni. Dal punto di vista, se vogliamo, più della scrittura, allora l'Argilli della scrittura di romanzo o altro, beh, io devo dire che quegli anni 70 e con i romanzi di Argilli per adolescenti, Ciao Andrea, Marta quasi donna, a mio parere bellissimi e importanti, non hanno avuto dei successori tali. Il genere romanzo, ad esempio, o narrativo per ragazzi è andato in altre direzioni, molto molto significative, vorrei dire più alla Rodari, forse come alla Rodari nella direzione di Argilli. E lì io, una grande scrittrice che sicuramente deve molto a Rodari, ma è stata capace di questi lanci ed è forse la maggiore che noi abbiamo in Italia, anche se oggi non scrive più per bambini e ragazzi, è Bianca Pizzorno. Bianca ha saputo sviluppare in una narrativa originale quelle idee di democrazia, di partecipazione, rivolgendole al femminile, ma comunque con questa base pedagogica e civile solidissima che veniva sicuramente da Rodari. Qualcuno che la s'allunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, del vecchio e del bambino, e del re, dell'ortolano, del poeta e dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo, e la terra è tutta a pezzetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero, il cielo di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. Pino Boero, lei fa parte, è vicepresidente della Fondazione Museo Arti e Industrie di Omegna e fa parte anche di un comitato scientifico che sta lavorando adesso a Roma sul centenario dalla nascita di Gianni Rodari. Che cosa bolle in pentola? Che cosa cercate di, che tipo di lavoro cercate di proporre per questo anniversario? Omegna si sta preparando la 20, dando, e do questo annuncio, già peraltro uscito sui giornali, ha vinto un bando della Cariplo e quindi sta allestendo, iniziando ad allestire o a pensare, speriamo di riuscire ad aprirlo per l'ottobre 2020, un museo Rodari ad Omegna, nel centro storico di Omegna, costruendo così nella città anche dei percorsi che portino al parco, e questa sarebbe un'ottima cosa. Io sostengo Omegna Rodari, binomio fantastico, perché insomma la città Rodari, anche se venne via 9 anni, era molto legato. Altre cose che facciamo ad Omegna, abbiamo messo insieme un corso di aggiornamento per gli insegnanti che è messo anche sulla piattaforma Sofia del Ministero e che è già partito e che sarà a Verbania a settembre, è stato a Omegna, poi a novembre sarà in Calabria per gli insegnanti. È un corso semplice di 8 ore, di cui però 4 sono, diciamo così, culturali, affidate a me, le bellissime e meritate sorprese da parte così sull'opera e sul lavoro di Gianni Rodari. Un corso per gli insegnanti di 8 ore, di cui 4 dedicate all'aspetto culturale, teorico, e gestite da me e da Walter Focchesato come critico dell'immagine, quindi si parlerà a partire da Raul Verdini e dalle illustrazioni, insomma, importanti di quegli anni in avanti, sull'illustrazione e sui testi di Rodari. Però 4 ore saranno affidate agli operatori del Parco della Fantasia di Omegna, che spiegheranno agli insegnanti e che lavoreranno con gli insegnanti sulle tecniche rodariane desunte da Grammatica della Fantasia o altro. Quindi un corso che unisce l'aspetto, diciamo, di conoscenza dell'opera rodariana all'aspetto pratico. Ha avuto buon successo in questa prima edizione a Omegna, adesso sarà a Verbania e poi a ottobre, novembre sarà in Calabria e poi, insomma, chi lo chiede. Questo servirà anche in qualche modo per far vedere quanto Rodari fosse legato alla scuola, non solo per raccontare la dimensione pedagogica, ma per raccontare e fare cose e raccontare una dimensione operativa. Stiamo allestendo anche una piccola mostra sul Barone Lamberto, sugli illustratori del Barone Lamberto, tutto questo anche per valorizzare un territorio come quello di Omegna, legato appunto di Omegna e del Lago d'Orta e del Puglio, legato alla figura di Rodari. E poi molte altre cose che insomma si stanno facendo. Roma, questo comitato che ha iniziato a lavorare con le biblioteche, ma non solo, ha parecchie iniziative che riguardano, che vanno sia dalle conferenze alle possibilità di convegno o altro. Ha appena iniziato l'attività, ma io sono convinto che questo ponte Omegna-Roma sia un ponte che davvero porti l'anno pro. E poi Bologna con la Fiera del Libro per ragazzi, la casa editrice Inaudi e LM, che ormai è l'unica casa editrice che pubblichi Rodari perché ha il diritto su tutto, stanno preparando grosse cose, credo una mostra di illustratori, nuove edizioni di Rodari, quindi veramente io credo che a livello nazionale e internazionale nel 2020 ci saranno delle bellissime e meritate sorprese da parte così sull'opera e sul lavoro di Gianni Rodari. Prendiamo, concludendola allora, l'inchiesta di Simona Sagone di Jucali, fatta tra gli editori, illustratori, scrittori del Festival per ragazzi di Bologna, sul tema cosa, quando e come leggono i giovani. I bambini preadolescenti leggono tantissimo e poi dalle superiori in avanti o diventano grandi lettori o il tempo per la lettura cala. Qual è il motivo secondo te? Secondo me c'è forse un eccesso di tecnologia spicciola nelle loro vite che porta via tanto tempo e anche un aumento dell'importanza dell'immagine a detrimento del contenuto. Sono anche convinta che molti leggano e poi si vergognino di dirlo e leggono quindi in segreto. Io ne ho incontrati tanti che però invece leggevano e la lettura è la diretta conseguenza di un incontro, si può dire amoroso, con un libro che ti cambia la vita. Allora, questo incontro va perseguito, non devono essere date letture riempitive, cose noiose, deve essere, diciamo, privilegiato proprio l'incontro dell'individuo con la sua lettura, quella che lo aspettava per aprirgli le porte della scrittura, insomma. C'è un legame, secondo te, tra il fatto che la scuola non affronti la storia contemporanea, il grande numero invece di libri che narrano le questioni dell'oggi, e anche tu ne hai scritti tanti in questi ultimi anni? E certamente con i programmi ministeriali che cambiano si è un po' costretti a supportare supplire a questi enormi buchi che sono veramente vergognosi, perché pensare di far terminare la scuola primaria senza una conoscenza della prima seconda guerra mondiale è un po' vergognoso, insomma. Quindi la letteratura per l'adolescenza, per l'infanzia e per la preadolescenza si mobilita per cercare di riparare certi errori che sono errori di base a cui non ci vogliamo piegare. Ecco, noi scrittori, anche gli illustratori, dicono no, la trascuratezza, la smemoratezza, che poi non è una smemoratezza casuale, comincia a somigliare a qualcosa di voluto. Queste famiglie tradizionali, famiglie meno tradizionali, ma in queste famiglie ci sono i libri. Allora, queste famiglie, per fortuna, anche nei libri vengono sempre di più rappresentate nella loro varietà e nella possibilità di combinarsi in un modo oppure in un altro. Sono stata recentemente ospite di un progetto quattro volte con dei ragazzi di 12 anni che mostravano un'apertura mentale che credo che la maggior parte dei ministri in Italia non abbiano, no? E dovrebbero forse fare qualche piccola incursione nella scuola italiana per rendersi conto che i ragazzi di problemi da questo punto di vista ad accettare la diversità non ne hanno, e vorremmo anche che continuasse a essere così. Ultima domanda, le fiabe tradizionali vanno proposte ai bambini, alle bambine, o ci sono dei rischi che si perpetuino gli stereotipi sulla figura femminile, sui principi azzurri? Allora no, le fiabe tradizionali secondo me vanno proposte sempre, comunque, anche in primissima età e anche più tardi, vanno svecchiate in alcuni casi, quando là dove si intuisce che sono delle portatrici, sono vettori di un certo conservatorismo, di una visione della società superata, certo vanno svecchiate, come Babette Cole vanno, o Roald Dahl, reinterpretate, ma lo schema comunque logico e narrativo di una fiaba tradizionale fa sempre comodo per aiutare comunque il bambino a formarsi una sorta di mappa mentale. Lola Barceló. I bambini preadolescenti leggono molto, poi dalle superiori in avanti o diventano grandi lettori o la lettura un po' scema. Qual è il motivo secondo lei? Il motivo è che la lettura è un piacere e anche un'evasione. La lettura non può diventare soltanto, come tante volte sento, un'occasione didattica. E quindi o ti piace o non ti piace, possiamo fare veramente su questo poco, nel senso che ci sono tante occasioni di evasione tramite altri dispositivi e di conseguenza c'è l'audiolibro, c'è Netflix e ci sono banalmente le reti sociali. Piuttosto penso che quello che si deve fare è un intervento storico educativo sul genere umano. Non è un progetto di promozione alla lettura quello che farà di noi persone curiose. Il problema è quello che non c'è voglia, non c'è curiosità di progredire. La lettura è evasione e dialogo, e in questi momenti non vedo nemmeno questa voglia da parte degli adulti, quindi difficilmente possiamo farle quando l'adulto accanto non lo è più. Le fiabe tradizionali vanno proposte ancora ai bambini e alle bambine o rischiano di tramandare gli stereotipi sulla figura femminile, principi azzurri? Tramandano gli stereotipi tanti di queste serie che vediamo sui grandi emittenti TV. Un Hansel e Gretel andrà, ma se di bambini abbandonati, li vediamo tutti i giorni, abbandonati metaforicamente. I bambini lo sanno tutto, l'hanno già capito tutto. Se tu chiedi a un bambino, a te cosa ti piacerebbe? Il bambino ti dice subito quello che gli piacerebbe, stare più tempo col mio babbo e con la mia mamma. Basta. Quindi le fiabe tradizionali al bambino lo fanno furbo. Ma allora, a raccontare fiabe ci perde più l'adulto o il bambino? Per avere una risposta, infine, torniamo a Gianni Rodari. Io stesso mica ti racconto le favole tutte le sere, vero? No. Ma lui non ci perde molto, perché poi lui ha i fumetti, ha la televisione, ha le altre favole. Chi ci perde semmai sono i genitori, che non hanno questo momento di dialogo importante che passa attraverso la fiaba, che è un modo di parlare del mondo, di parlare delle cose, è un modo di entrare nella realtà, anziché dalla porta, dal tetto, dal camino, dalla finestra. Cioè, il linguaggio dei bambini è fatto di immaginazione, di pensiero logico, è tutto insieme questo. I genitori che lo perdono, perdono qualcosa per loro, il bambino trova sempre il modo di usare la propria immaginazione. L'ultima parte della trasmissione va ad intrecciare il tema del fumetto, anzi delle graphic novel e del jazz, perché è uscito per l'editore Curci un titolo che è Io sono Michel Petrucciani, il famoso pianista francese, un'edizione a colori ben disegnata da Marina Pasini e con la sceneggiatura di Vanni Masala. Il nostro William Piana ha interpellato appunto lo stesso Vanni Masala, che ci racconta un po' il perché di questa scelta. Si tratta di un omaggio, sostanzialmente, di un omaggio a un grande pianista, una graphic novel che ho realizzato insieme all'illustratrice Marilena Pasini, illustratrice romana, e racconta la vita di Michel. Perché la scelta di questo artista? Ma perché Michel è stato una meteora nell'ambito del jazz, ma non solo del jazz, perché io lo considero un artista pop a tutti gli effetti, per la sua popolarità, ma anche per la sua capacità di comunicare con le persone al di là degli stili musicali. La scelta perché è il ventennale della sua morte, perché in qualche modo la memoria si perde, non solo per queste cose, ma anche per tante altre. Per cui abbiamo pensato di omaggiarlo con un sistema, quello della graphic novel, dunque del racconto della sua vita tramite illustrazioni e un testo che possa raggiungere più persone possibile, insomma, persone, certo, che magari hanno difficoltà ad approcciarsi ad un saggio musicale. Quindi fumetto, immagine, jazz, continua questo matrimonio? Continua anche nell'ambito delle mie passioni. Infatti. E anche per questo che il sistema, come dire, di rottura degli schemi e di rottura delle frontiere che definiscono i linguaggi è una delle cose che mi interessano di più. In questo caso la vita di Michel viene raccontata attraverso aneddoti, dalla sua nascita sino alla morte, con un sistema, diciamo così, cinematografico. Ci sono anche degli episodi inediti, ho parlato con musicisti che hanno suonato con lui, con persone che l'hanno conosciuto, con i suoi familiari. È stato un lavoro abbastanza difficile e abbastanza lungo, diciamo, però che adesso spero possa trovare il gradimento delle persone che amano questo artista, o meglio, che non lo conoscono ancora e tramite questo media possono trovare degli spunti. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.